andrà tutto bene, però mettiti un po' più in là in maniera che facciamo una specie di cerchio, cioè che ci possiamo guardare in faccia lì laggiù, così, ok? Ora faccio questa domanda, tanto che non faccio questo laboratorio. In quanti modi, cosa significa vedere? E ci facciamo questa domanda, no? Cosa significa vedere? E in quanti modi diversi si può dire vedere? Cioè, ci avete delle parole che sono sinonimi della parola vedere? Faccio un esempio, guardare. Guardare è un sinonimo della parola vedere. Lo sguardo è importante per l'artista? Importantissimo, no? Ci sono degli artisti che usano le mani, non vedono e modellano, usano il tatto. Allora, tu volevi già dire qualcosa, prego. Osservare. Osservare. Anche osservare è un modo del vedere. Immaginare, chi l'ha detto? Sì, man mano fermiamoci a notare le differenze, possiamo chiederci cosa significa immaginare, perché a volte usiamo guardare come sinonimo di vedere, ma è la stessa cosa? Sarebbero gli occhi della mente. Tu dici gli occhi della mente, cos'è? Gli occhi della mente chi è? Pensiamo di volere, cioè qualcosa che ci rispecchia anche. Quindi tu dici, pensiamo di volere, quindi è una sorta di illusione. Un'illusione. O qualcuno potrebbe dire un sogno. Come mai arrivate ora voi due? Allora, quando si arriva si chiede permesso, posso entrare, si dice scusi professore, sono arrivato in ritardo. Ok, non è che si entra così. Interrompete tutto. Tra l'altro metterei uno qui che guardate là, stiamo facendo una cosa particolare, tutti siete qui, vedete come vi chiamate e così vi levo l'assenza. Ciao. Come ti chiami? Mia, la prima. La prima. Tu ti chiami? Bertini Thomas, questo? Ok. Allora, stiamo facendo un laboratorio. Ora, via via, vi capite di cosa parliamo. Quindi stiamo parlando del vedere. Stiamo cercando i vari modi di dire vedere. Tutti diversi uno dall'altro. Lei stava dicendo su immaginare. Ripeti un po' quello che così mettiamo loro all'interno della discussione. L'immaginazione sono gli occhi della mente ed è un'immagine proiettata da quello che proviamo, quello che vorremmo che ci fosse, qualcosa che ci potremmo anche risultare. Quindi ha a che fare con il sognare anche, mi pare, no? Guardate, vi dico subito una cosa interessante, secondo me. Magari voi non la ritenete tale, ma credo di sì. La parola idea è una parola antichissima, indoeuropea. Sapete cosa significa? Il significato antico della parola idea è immagine. D'accordo? L'idea spesso acquista la forma di un'immagine, come dice... Tu come ti chiami? Mariella. Mariella. Perché è difficile da dire. Sì, tanto lo sbagliano tutti, sono più forti. Dillo bene. Mariela. Mariela. Più o meno, va bene. D'accordo. Allora, Mariela dice, è l'immagine che la mente proietta in qualche modo, hai detto, no? È un'immagine della mente. Quindi, sì. E questo attiene all'immaginare. Lei ha detto guardare con gli occhi della mente. Ha detto così, no? E è venuto fuori anche un altro verbo, sognare. Sognare è molto interessante perché se uno sogna, vede. E perché è interessante? Ci avete mai fatto caso? Perché quando si sogna, dormiamo. E quindi come sono gli occhi? Chiusi. Esattamente. Oppure quando si sogna si... cioè, si guarda qualcosa... si guarda anche un desiderio, quindi è qualcosa anche di molto profondo. Certo, si guarda anche un desiderio. Quindi io posso vedere con gli occhi chiusi. Allora, questo cosa ci dice? Che chi è che genera le immagini nella nostra mente? Il cervello. Noi vediamo con gli occhi, o come vediamo? Se io posso vedere con gli occhi chiusi, gli occhi sono importanti, ma sono essenziali? No. Posso vedere con gli occhi chiusi. Allora, prego. Sì. Sì, questo è importante. Sì. Cioè è un concerto, una sorta di sinfonia di tutti i sensi, no? Che contribuiscono al vedere. Questo è il preferito, lo senti con il naso, lo senti con la bocca, lo senti con gli occhi. Cioè, se lo vedi solo, se vedi solo l'immagine, non ti viene tutta questa voglia di mangiare. Guarda, giusto, giustissimo. In maniera letterale, i pipistrelli vedono con le orecchie, i delfini vedono con le orecchie. Sapete cosa fanno? Per esplorare l'ambiente emettono un suono. Come fareste a sapere se vi state muovendo dentro un ambiente chiuso, completamente al buio, oppure siete all'aperto ed è completamente al buio? Prego. Senti il suono che sbatte contro un muro e torna indietro. Esattamente. Questo lo senti. Sì, giustissimo, bravissimo. Questo si chiama rimbombo in fisica. Bene, tu lanci, per esplorare l'ambiente, lanci un urlo, d'accordo? E ti ritorna indietro se trova una parete. E senti di essere, cioè un po' come vedere. In pratica delfini, i pipistrelli urlano per vedere. Il loro cervello è in grado di ricostruire una mappa degli oggetti che si trovano dentro la stanza analizzando il segnale di ritorno. Va bene? Prego. Riescono a superare così gli ostacoli che c'erano davanti, appunto, con tanto tempo di allenamento, riescono a sentirlo. Io l'ho visto, nel documentario, al video, alla voce tua. C'è appunto questo ragazzo, sì, che lui è totalmente cieco, cioè non può vedere niente, nemmeno. E gli hanno fatto in pratica questo test, cioè hanno messo vari ostacoli come un labirinto, e lui ha superato tutte le volte senza alcuna, sì, perché quindi lui si era allenato tanto tempo. Sì. E utilizza comunque che cosa? Il suono. Utilizza il suono. E poi si possono indossare anche delle maschere, cioè dei servomeccanismi elettronici che emettono suoni. Va bene. Normalmente. Poi se c'è un ostacolo il suono ritorna indietro e cambia la frequenza a seconda della frequenza. Più alta la frequenza, più l'ostacolo è vicino. Quindi se mi sto avvicinando all'ostacolo sento che la frequenza che mi arriva è molto alta, il suono diventa molto acuto e quindi capisco che l'ostacolo è molto vicino. E se mi allontano cambia la frequenza. Prego. Brava. Sì, sì, quell'esempio che hai fatto, sì, è molto calzante. Benissimo, allora andiamo avanti. Man mano che vengono fuori i termini, avete detto osservare. Che particolarità c'ha questo verbo, osservare? Che modo è del guardare, l'osservare? Diciamo, io do, via via vi faccio vedere come lavoro. Io do sempre la parola prima a chi non ha ancora parlato. Va bene? Prego. Guardare è analizzare i dettagli. Ok. Perché guardare è guardare, cioè buttare l'occhio, diciamo, tra virgolette, mentre osservare è proprio guardare attentamente. Quindi cercando di notare i dettagli, tu dici. Sì. Su certi libri di scienze c'è scritto che lo sguardo dello scienziato è quello dell'osservatore, è uno che osserva, non vuole farsi sfuggire nulla, d'accordo? Ok, altri che vogliono dire sull'osservare? Quindi osservare, poi abbiamo detto guardare, vedere. Vi vengono in mente delle domande intorno al discorso che stiamo facendo? Tiratele fuori queste domande. Ve ne faccio una di domande. Si può guardare senza vedere? Faccio un esempio. Cammino per una strada, faccio una strada che faccio sempre, non so, via San Frediano. Finite a scuola e fate via San Frediano. Può succedere a qualcuno che ha sempre fatto questa strada con gli occhi aperti? Può succedere? No. E una domanda, quando fa il permesso, prof? Ah, ecco, vedi, bravo. No, non lo fare. Vieni. Come ti chiami? Come mai? Dai, come mai sei arrivato ora? Perché mi sono fermato a fare una cosa. Dopo stavo continuando a fare una cosa, poi ho mandato un messaggio a Yasmin, ho preso la lampada che arrivava prima e non è passata. Ah, sì. Quindi ho fatto tutta corsa. Va bene, vieni, sediti qui. Fagli capire cosa stiamo facendo. Se mai partecipi anche tu. Allora, stavamo dicendo, si può percorrere una strada sempre con gli occhi aperti e a un certo punto ci si accorge che magari questa strada la percorriamo da chissà quanto tempo e c'è qualcosa che non abbiamo visto. Può succedere questo? Sì. Ti è successo? Dai, lì, se ci racconti qualcosa, se ti ricordi qualcosa ce lo racconti. Penso che uno passa tutte le volte dalla Corsa Italia e un giorno a casa scopre che è un nuovo negozio. Ecco. In questo caso stai notando una differenza, perché stai confrontando il prima con il dopo, stai notando un cambiamento. Ok, che altro può succedere in questo senso? Prego. Per esempio, per il nuovo riguardo a Corsa Italia 2, a Natale tutte le stagioni cambiano gli addobbi, sì. E tipo, tu sempre ci vai, sia dritto che appoggi, per esempio. Per cui gli altri metodi già, gli altri hanno messo, te li chiamano tutti, tutti i giorni ti sembra di più, a un certo punto te ne accorgi, non lo sapevo. Ecco, allora, accorgersi, vedete nel suo dire, ha usato quest'altro verbo. Accorgersi è un modo del vedere. Ci si accorge. Bene. Vediamo, guardate, se esploriamo il vedere, scopriremo che ci sono un sacco di modi. Ne avete già nominati alcuni. Vediamo se ci sono altri modi del vedere. Ve ne vengono in mente? Tu come ti chiami? Flavio. Ok, ti devo dire. Altri modi del vedere. Notare. Proprio che se non vuoi una concetta, 12 gennaio. Allora, notare sì che era già venuto fuori, accorgersi, notare, come dici? Intravedere, interessante intravedere. Che particolarità c'ha intravedere? Ogni volta dobbiamo cercare di capire le differenze, perché esistono parole diverse per i vari modi del vedere. Perché tra intravedere, osservare, guardare, vedere ci sono molte differenze. Dobbiamo tirar fuori queste differenze. Che cos'è intravedere? Vedere qualcosa che si vede appena, quindi che è nascosto, che è un po' celato. Ok, intravisto quindi lascia pensare a che cosa? Che non vedo nella sua interezza. Magari vedo un particolare. Ok. Altri verbi? Pensateci. Squadrare. Squadrare è interessante. Cosa significa squadrare? Qualcuno ce lo sa dire? Non so se è giusto. Adocchiare, prendere di vista, non di mira, però. In che modo utilizziamo la parola squadrare? Prego. Quando guardo una persona e mi faccio un'idea su quella persona anche se non la conosco. E magari dico, lui è una persona cattiva perché ho visto che ha fatto una cosa così, ma in realtà non è così ed è buono. Quindi tu dici mettere all'interno di una certa categoria? Sì. Inquadrare? Sì. Inquadrare. Bene. Squadrare. Vi faccio una domanda, ma lo sguardo che usano, che si usa nei vari mestieri, può essere diverso? Per esempio squadrare chi lo potrebbe utilizzare come mestiere? Un insegnante. Un insegnante ti squadra. La medaglia. Forse al contrario, gli studenti ci squadrano. Ah, può essere reciproco, dice la prof, perché gli studenti stanno a squadrare. Allora, nella parola squadrare esiste la parola quadro, che è radice della parola quadrato. Con che cosa ha a che fare il quadrato rispetto al vedere? O anche il rettangolo? Direi che ha a che fare con... Quando disegnate, su cosa disegnate? Che foglia, che forma ha? A quadro, rettangolo. Ora è sempre un quadrilatero. Bene. In qualche caso può essere quadrato, in generale è un rettangolo. Quando avete finito il quadro, dove lo mettete? Ecco. Analizziamo che cos'è una cornice. Cos'è una cornice? E cos'è un rettangolo? Dove troviamo rettangoli? Guardatevi intorno. Ascolta, puoi parlare per alzata di mano, non nel mezzo così buttandoti, no? Per alzata di mano parliamo, perché se no il tuo discorso si perde. Se vuoi dire qualcosa, prego. No, devo fermare la frase. Vai. Puoi formare la frase mentre la parli, è un buon esercizio. La vediamo dappertutto, in questa stanza abbiamo delle rette che poi a un certo punto si fermano e formano un angolo e creano. Sì, ma che abbiano a che fare col guardare, rettangoli che abbiano a che fare col guardare, ce ne sono in questa stanza? Prego. Ne ha nominati tre importanti. No, hanno a che fare col guardare. La lim. La porta. La porta. La finestra. Il computer. Come si chiama il sistema operativo più famoso al mondo? Più Windows. Usato al mondo. Cosa significa Windows? Finestra. Ci avete mai fatto caso? Sì. C'è un oggetto che tutti avete in mano. compreso compreso gli insegnanti. Forma. Gli occhiali. Allora. Cioè, il rettangolo. Sì, ma è sempre un rettangolo. Tu cosa dicevi? Magari serve per farle saltare le immagini. Scusa, visto che siamo a scuola, anche il libro. Anche il libro, sì. Certo, anche il libro. E cosa fa un artista, dicevamo prima, che disegna su una tela e la tela la incornicia in un quadro rettangolare. C'è un particolare artista che ci fa pensare. Perché lui, si chiama Magritte, disegna una pipa, la incornicia e ci scrive: questa non è una pipa. Perché fa questa cosa? Ha a che fare con la nostra ricerca, prego. Perché almeno c'è, in quella pipa ci può vedere qualcos'altro. Cioè, per noi sembra una pipa, però per l'artista non è una pipa. Ok, questa è la ragione per te. Altre ragioni? Prego. Perché magari quello è il disegno di una pipa, ma non è la pipa, soltanto. Quello è il disegno di una pipa, non è una pipa. È importante questa cosa che ora dice, tu ti chiami? Giasmina? Ok, che dice Giasmina? Ci sta dicendo, guarda, questo è il disegno di una pipa. Rappresentare è un'altra modalità che ha a che fare con il vedere. Rappresentare. Sta dicendo, questa è il disegno di una pipa, è la rappresentazione di una pipa. Se qualcuno insiste e dice no, no, quella è una pipa, io vedo una pipa, cosa potreste rispondere a questo qualcuno? Che magari te vedi una pipa, però se noi la guardiamo in un'altra angolazione oppure con i nostri occhi possiamo... No, non è attiene a questo. Tu potresti rispondere che cosa? Perché come ci ha insegnato noi il nostro corpo di pittura, noi quello che disegniamo è solamente una proiezione di qualcosa, non è quella cosa reale. Sì, non è quella cosa reale. Infatti se insistesse, potreste dire prova a fumarla, ad esempio. Non è una vera pipa perché non la posso fumare. Non è l'oggetto fisico. Allora, se io dico... C'è lì una cartina geografica, la vedete? No. La immaginate? Sì. Ok. E vi dico, quella è l'Africa. Non è l'Asia. No. Lì può esserci l'Asia oppure l'Africa? Ciao. In pratica io vi sto chiedendo, la mappa coincide con il territorio? No. No, è una rappresentazione del territorio. Va bene? Rappresentare è estremamente importante, ha a che fare con il mestiere che volete imparare. D'accordo? Andiamo avanti. Ci sono altre parole che vi vengono in mente? Ah, guardate che questa cosa, prima di andare avanti, questa cosa della cornice è estremamente importante. L'avvertimento che dà Magritte, che vi dice questa non è una pipa, è la rappresentazione di una pipa, è estremamente importante. Perché è estremamente importante? Perché ogni volta che mettete qualcosa dentro una cornice, la cornice vi avverte e vi dice: guarda, questa è una rappresentazione della realtà, seppure si tratta di un film, di un documentario. Se due persone assistono allo stesso evento, immaginiamo che due di voi vanno alla stessa festa, poi tornano e separatamente gli chiediamo notizie della festa. Diranno esattamente le stesse cose, avranno visto esattamente le stesse cose, utilizzeranno esattamente le stesse parole, l'avranno vissuta esattamente nello stesso modo? No. Se facessero un reportage filmato della festa, farebbero lo stesso reportage? Due giornalisti, due reporter, che vanno in un luogo dove si svolge un evento che interessa la comunità e vogliono trasformare questo evento in notizia, lo faranno esattamente allo stesso modo? No. È importante questo? È importantissimo. Ora attenzione. Se voi guardate qualcosa al televisore, sapete che quello che vedete è il risultato, per esempio, di una dell'attività, diciamo, di un giornalista. Ma cosa fa in generale il giornalista quando vi racconta qualcosa? Riporta i fatti che stanno accadendo in quel momento, magari anche se sono detti dopo, sono i fatti che stanno succedendo, cioè, dal suo punto di vista. Guardate queste parole, punto di vista. Ciascuno ha un suo punto di vista, diverso dall'altro, non solo perché si trova in una posizione diversa, ma perché allora? Potrebbe trovarsi nella stessa posizione e guardare allo stesso modo. Ma tutti noi vediamo cose diverse. Perché? Abbiamo percezioni diverse. E che altro abbiamo di diverso l'uno dall'altro? Il carattere. Cioè io posso vedere particolari che magari un'altra persona non mi interessa. Esattamente, sì. E poi che altro? Importante, come dici. Che altro abbiamo di diverso ognuno di noi rispetto all'altro? Dunque, in questo tipo di laboratorio io faccio delle domande non per ottenere necessariamente delle risposte qui e ora, e non quella che necessariamente sto pensando io. Faccio delle domande per muovere i vostri pensieri verso la ricerca di risposte, o anche verso la ricerca di altre domande. D'accordo? È così che le cose diventano estremamente interessanti, non interessanti, estremamente interessanti. Per esempio, di una cosa mi sono reso conto quando ho visto la differenza tra un computer dove posso fare un videogiochi, per esempio una PlayStation, e quelle di ultima generazione, in cui succede una cosa particolarissima, che è questa: la cornice scompare, non c'è più. A che tipo di giochi mi riferisco e a quale tecnologia? Qualcuno lo sa? Come faccio a far sparire la cornice? Prego. Giochi di realtà virtuale, quelli proprio dove sei impersonizzato nel personaggio. Realtà virtuale, realtà aumentata, Oculus Rift è una tecnologia. Tu indossi la maschera, così. Il computer genera le immagini, i tuoi movimenti fanno sì che il computer faccia un rendering delle immagini. Tu puoi muoverti dentro la realtà generata dal computer, come accade in un sogno in cui non c'è una cornice, e siccome nel sogno non c'è la cornice, io non mi rendo conto se sto guardando, sono immerso, me ne rendo conto dopo, quando mi sveglio. Molto raramente le persone si stanno rendendo conto di stare sognando e scambiano quella per la realtà. Ecco dov'è l'insidia: scambiare quella per la realtà. Perché questo deve essere elemento di riflessione? Perché immaginiamo un bambino che cresce utilizzando per molte ore l'Oculus Rift, cioè un ambiente in cui la realtà è generata dal computer e lui vi si muove dentro. Immaginate di assistere a un film non da spettatori, il cinema è un altro rettangolo, è un rettangolo. Come sapete, questo cinema rettangolo tende a diventare sempre più un'imitazione della realtà. Com'era il primo cinema? Com'era il primo cinema? In bianco e nero. Poi? Era muto. Com'è diventato man mano? A colori. I suoni. Effetti speciali. È diventato ad alta definizione. Alta definizione. Se vedo un'immagine sgranata rispetto a una ad alta definizione, qual è più vicina alla realtà? Quella ad alta definizione. E poi cos'è successo? Ecco, è diventato in 3D, cioè esce dal piano e invade la sala. Ci sono dei cinema dove addirittura vogliono farti sentire i profumi, quindi invadono la sala con profumi. Sono dei cinema specializzati in questo. Sì, oppure mi è capitato anche a me di esserci quando fanno le scene dove ti tuffi nell'acqua, ti spruzzano la spalla addosso, li chiamano cinema 4D. Esattamente, sì, sì, sì. È importante, no? Qui, a due passi da qui, se voi andate in normale, c'è un nuovo tipo di televisione che i tecnici della normale chiamano Cave 3D. Cave è un po' una grotta, una stanza. Il televisore lì si trasforma in una stanza. Attenzione che il televisore si è anche appiattito ed è stato appiccicato alla parete. Tum. È diventato una finestra sul mondo, non sul mondo immaginario. Sul mondo rappresentato, una finestra come le altre, ma molto particolare. Da qui vedete il cortile. Quest'altra finestra attaccata alla parete è una finestra sul mondo intero. Vi portano in casa gli eventi di tutto il mondo. Non è a caso che il sistema operativo più potente al mondo, il confine tra il computer e il televisore è labile. Io posso, con il computer lo posso utilizzare come un televisore. Posso guardare le televisioni di tutto il mondo. Posso ascoltare le radio di tutto il mondo. Va bene? Cioè, diventa una finestra particolarissima, tant'è vero che si appiattisce, viene piazzata su una parete. Questa parete si può accendere e guarda molto lontano. Ma vede esattamente quello che accade? No. Ricordiamoci di Magritte che ci dice: questa non è una pipa. Il televisore continua ad avere una cornice. La cornice contestualizza, dà significato. Ma se la cornice scompare e la realtà generata è virtuale e io sono immerso all'interno delle immagini generate da un computer, cosa succede? Immaginate di essere non spettatori di un film dell'horror, ma dentro il film dell'horror. Qual è il vostro coinvolgimento a questo punto? Seppure sapete che rimarrete vivi, ma il vostro coinvolgimento è molto più totale e totalizzante, perché siete dentro il film e le vostre azioni magari cambiano la sequenza delle scene. Stiamo simulando la realtà, con noi immersi dentro la realtà. È una rivoluzione, uno scarto enorme rispetto al passato. Capite? Cioè, stiamo tentando di generare una realtà all'interno della quale ci immergiamo e saper distinguere se sono desto o sono sveglio, se sono desto o se sto sognando, diventa sempre più difficile. Soprattutto per un bambino che cresce all'interno di questo mondo. Avete visto Matrix? Chi l'ha visto? Tu l'hai visto? Chi non l'ha visto, guardatelo, perché è un capolavoro della cinematografia, della fantascienza. È estremamente interessante per moltissimi aspetti. Andatelo a vedere. Poi l'evoluzione del cinema 3D, 4D, altra cosa che aggiungo è sui seggiolini, magari la vibrazione oppure la simulazione della temperatura che è rapportata a quello che c'è guardando, quindi immagino che la stessa cosa con Sì, per esempio, giustissimo come dice Ilaria, certo. No? Sì, per esempio tu poi, perché l'idea è quella di simulare la realtà, diventa, no? Sì, come fai a distinguere se tu dalla finestra stai guardando la realtà o la rappresentazione della realtà? Infatti. Ora, tutto questo ha degli aspetti anche positivi, per esempio in campo educativo. Non so, io posso, se devo diventare un pilota, mi piazzano su un sellino, mi mettono la maschera e tutto quello che faccio simula la realtà del volo. Chiaramente se faccio uno sbaglio volando per davvero, magari il mio aereo va a finire giù. Se sto guidando una macchina, un'automobile, quindi posso essere messo su un seggiolino mobile e così via. E simulare esattamente la realtà. E imparare. Oppure posso muovermi, come vi stavo dicendo, il cave 3D qui in normale è una stanza, lì la televisione è una stanza, ma è una televisione molto più che un televisore. Entrate lì dentro e su tutte le pareti intorno a voi si generano delle immagini, voi siete completamente immersi con tutto il corpo e senza nemmeno averci l'Oculus Rift che sulla fronte, siete completamente immersi in un ambiente in cui l'immagine, quello che vedete, è generata dal computer. Alzate un braccio così ed è come se vi muoveste alla vostra destra. Il computer genera le immagini. Vi fanno visitare, per esempio, è un modo di visualizzare i dati scientifici. Hanno ricostruito esattamente, non so, un luogo archeologico che è stato ricostruito come era. E ora vi fanno fare una passeggiata, per esempio, dentro Pompei, com'era. Com'era esattamente. O dentro una città che ormai era ridotta, è stata scavata, ridotta. Allora tu vuoi fare una passeggiata come fare un viaggio nel tempo. Capite? Bellissimo, no? Ok. Allora, vedete che tutto questo discorso ci sta portando un po' lontano, ma giustamente lontano. Televisione. Tele significa da lontano. Tele etimologicamente significa da lontano. Visione, da lontano. Televisione. D'accordo? Altre parole per dire le modalità del vedere. Ce l'avete? Dunque, prego. Focalizzare. Brava, sì. Mettere a fuoco, quindi. Cosa ci vuoi dire qualcosa sul focalizzare? No, come ha detto lei, mettere a fuoco. Sì, vuol dire che questo anche poi lo studierete quando farete ottica. Però tutti sapete cosa significa mettere a fuoco. Cioè, potremmo dirlo in qualche modo. Siccome l'ora sta finendo, vorrei che andaste a cercare sul vostro cellulare, ciascuno si sceglie una parola che abbia a che fare con il vedere, poi scrive sinonimo per esempio di vedere, oppure qualcuno scrive sinonimo di osservare. Insomma, andiamo a cercare altre modi del guardare e vediamo quanti ne troviamo. Semplicemente li leggiamo perché non c'è più tempo, sono le 11. Sbirciare, interessantissimo, sbirciare. Vediamo se riusciamo perlomeno a nominarne molte. Poi magari per conto vostro continuate a... Cosa significa sbirciare? Poi trovate altre parole? Percepire. Fissare. Interessante. Come dici tu? Fissare. Scrutare. Scrutare, bellissimo. Squadrare. Squadrare l'abbiamo detto, scrutare. Esaminare. Esaminare. Badare. Eh? Badare. Come? Badare. Badare. Sorvegliare. Controllare. Aspetta, aspetta. Scorgere. Scorgere, sì. Constatare. Constatare. Adocchiare. Adocchiare. Ammirare. Ammirare. Ispezionare. Ispezionare. Vedete i mestieri. L'ispettore usa lo sguardo nel modo dell'ispezione. D'accordo? Vedete i mestieri? Andiamo avanti? Come dici? Preservarsi. Non so se abbia a che fare con il vedere. Raffigurarsi. Raffigurarsi. Cos'è, come dici, scusa? Curiosare. Curiosare, bellissimo. Notare, sì, l'avevamo già detto. Prevedere. Prevedere è interessante. Vedere prima. Prego. Percepire l'abbiamo detto. Obiettare. Obiettare, sì, perché ha a che fare con obiettivo. Adocchiare. Interessante, non ci avevo mai pensato a obiettare. A vedersi. Obiettare, interessante. Avvedersi, sì, quindi avvedersi, interessantissimo, anche avvedersi. Ciascuno di queste dovremmo discuterne il significato e la differenza rispetto alle altre. Prego, come dici tu? Esaminare. Esaminare, sì, è stato detto. Controllare. Importantissimo. Distinguere. Leggere. Notare. Tra l'altro leggere è legato a legare. Precarsi. Lego legis, legare, mettere insieme le lettere e dargli significato. Visitare. Vigilare, sì, sorvegliare anche. Guardate, in siciliano sorvegliare si dice spiare. Ma si dice anche da noi. Ma spiare in siciliano ha anche un altro significato, bellissimo. Significa domandare, viene dal latino, domandare, spiare è anche domandare, quindi è interrogare ciò che guardiamo, interrogare, cioè una parola che ancora non avete tirato fuori è interpretare. Noi quando vediamo in realtà interpretiamo. Vi è mai successo di subire una sorta di piccola illusione ottica? Ve ne racconto, c'è qualcuno che ne può raccontare una? Prego. Quando c'è l'estate, c'è il sole per la strada, sono tipo pozzanghere. Cioè, io a volte vedo delle pozzanghere quando c'è l'estate. Sì. Colorate. Le vedi colorate? No. Allora, cosa vuoi dire? In che senso? No, che cioè, sì, spazzato. Ah certo, ma quella è un'illusione ottica, poi la studierai in fisica. Ma io dicevo questo, guardate, l'ultima cosa, vi racconto una mia esperienza. Per esempio una volta sono arrivato al buio, ero non so se in bici o in moto, sono arrivato, crepuscolo, e vicino a un albero vedo un gatto, ma lo vedo proprio, mi avvicino di più. E capisco che non è assolutamente un gatto, ma è un cespuglio. Ma io avevo visto un gatto. Perché chi è che costruisce l'immagine del gatto? È la nostra mente, come dicevi tu. Cioè io ho sognato per un attimo e la mia mente ha costruito un gatto, ha interpretato quel cespuglio come fosse stato davvero un gatto. Per cui la mia mente mi ha fatto vedere un gatto. Allora qui entriamo nel mondo della allucinazione. Che cos'è un'allucinazione? Va bene? Cosa volevi dire? Va bene, grazie.